comunicazioni, musica. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radio azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Giornalista. Figura di fondamentale importanza per la vita di ogni Stato. Uomini o donne di merda che quotidianamente iniettano le loro dosi di moralismo statale nelle vene del gregge popolo. Il giornalista, alla pari dello sbirro, è il braccio armato dello Stato. Questo è l'unico caso in cui la penna vale quanto la pistola. Essi sono capaci di fare il bello e il cattivo tempo della nostra quotidianità. Se dicono che c'è crisi economica, tutti si deprimano e si suicidano. Se dicono che i tempi sono economicamente rosei, tutti sorridono e corrono a rimpinguire le tasche del capitalismo. I giornalisti, anche se lo sono sempre stati, hanno guadagnato una certa agilità, specialmente negli ultimi 10 anni, ad inventare e creare inchieste. Non più solamente giornalistiche che di per sé facevano già paura, ma soprattutto inchieste giudiziarie. Ogni giornalista nel corso degli anni si è specializzato in qualche campo in cui molto dettagliatamente spiattella la vita di chiunque alla mercé di tutti. Sono loro ed il Papa che almeno 5 volte al giorno entrano dalla finestra della TV e altrettante volte dalle casse della radio nella casa degli italiani, e non solo ovviamente, in più una volta al giorno con le varie testate giornalistiche. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, di base lavorano tutti per la buona salute dello Stato. I manovratori di corde a cui sono legati i politici. Se non esistessero i giornalisti, i politici non parlerebbero. Se non ci fossero i giornalisti, ce ne fregheremmo altamente che Berlusconi si tromba un idiota in cerca di fama. Se non ci fossero i giornalisti, non ci si indignerebbe davanti a un inno nazionale fischiato o 4 idioti che si ammazzano per una partita di calcio. Se non ci fossero i giornalisti, la morale religiosa non entrerebbe nelle teste della gente così facilmente. Ma soprattutto, se non esistessero i giornalisti, la gente inizierebbe ad usare il proprio cervello. E allora cosa capita? Capita che nella settimana in cui la Polizia di Stato stava perdendo credibilità da parte degli italiani, dopo un lungo applauso agli assassini di Aldo Brandi, hanno ben pensato di far prendere a botte, sparando nel morto, 4 imbecilli per spostare l'attenzione. Radioazione. Bye. Radiazione, diretta d'azione 9 maggio 2014. Allora, oggi diretta d'azione che riguarderà controinformazione, qualche riflessione, qualche provocazione, giusto per non far che ce la mancare, e musica ovviamente. È una radio, quindi c'è anche la musica, anche per spezzare la mia voce che vi può stare anche sui coglioni, con un brano musicale. Allora, ricordiamo subito gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org, per chi vuole mandare qualsiasi tipo di scritto, comunicato, iniziative, manifesti, CD o buscoli, tutto materiale che può essere pubblicato sulle pagine web del sito di controinformazione, che è radioazione.org, sito dove ogni giorno potete leggere la controinformazione aggiornata, e oltre alla controinformazione che rispetto alla radio è quotidiana, la radio è lunedì e venerdì, lo ricordiamo per chi non ha mai ascoltato Radiazione. Oltre alla controinformazione trovate anche una pagina di download dove potete scaricare manifesti, libri, opuscoli, un po' di materiale c'è nella sezione download, dove potete ascoltare le dirette d'azione attraverso il lettore flash player che trovate in sidebar, oppure attraverso il banner che trovate sulla pagina ogni giorno in cui c'è la diretta. Ci cliccate sopra o sul lettore flash player, dove c'è play, mi raccomando, oppure sul banner, e ascoltate Radiazione dalle 17 alle boh. Si parte sempre alle 17, non si sa mai quando finisce. Sappiamo quando iniziamo, non sappiamo quando finiamo. Allora, questo anche per Radiazione. Invece la radio trasmette sul server di compagno che ci ha messo a disposizione sia per il sito che per la diretta, il compagno di Anarchist Library, che ringraziamo sempre, salutiamo sempre, ovviamente. Allora, ricordiamo, oggi controinformazioni, riflessione e musica, mentre il lunedì si fa la diretta d'azione con la lettura, cioè si inizia sempre con la lettura di Nazaro Treggi, il racconto che sto scrivendo io, che per ottobre si spera di far uscire stampato in carta, in allegato il CD con delle musiche inerenti al racconto, che poi bene o male sono tematiche affini, molto affini comunque ai temi toccati su Radiazione, al sito. Allora, e oltre al Nazaro 13 soprattutto si legge, si fa lettura di libri che non sono i soliti e classici testi anarchici, che ovviamente abbiamo pure un po' due coglioni così a rileggere e rileggere sempre le stesse cose, che vengono sempre pubblicati, strapubblicati e straripubblicati. Noi abbiamo deciso di leggere sulla reazione dei libri, dei romanzi che comunque ci abbiano delle cose affini sempre al sito e al nostro pensiero. Quindi l'appuntamento con I Sabotatori, che stiamo leggendo, di Edward Abbey, è per lunedì prossimo ore 17. Oggi con informazioni, riflessione e musica. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Bad Religion, poi dopo si torna qui e si parte subito con la controinformazione. Photograph, like paper in the wind. There's There's a hammer by the window. There's a knife on the floor. Like turbines in darkness, like the blood on my door. It's the generator. Questi erano Bad Religion con il brano Generator. Come dicevo, si passa subito alla controinformazione, si passa alla controinformazione con un aggiornamento per quanto riguarda il processo in Grecia contro i compagni accusati per il progetto Phoenix, o progetto Fenice in italiano. Leggiamo direttamente il testo che ci aggiorna sulle varie accuse, sulla data per quanto è stata fissata per l'inizio del processo. Allora, il processo per il caso del progetto Phoenix o Fenice è stato fissato per il 4 giugno 2014 e avverrà nel tribunale speciale nella sezione femminile del carcere di Korydallos. Le accuse sono relative a tre azioni del progetto Fenice 1, 3 e 4. Gli accusati sono il compagno Andreas Savaridis, membro della FAI FRI, l'anarchico Spiros Mandilas, tutti i prigionieri membri della cospirazione delle cellule di fuoco. Le accuse sono Andreas Savaridis, partecipazione alla cospirazione delle cellule di fuoco, tentato omicidio dell'ex capo dell'antiterrorismo Dimitris Korianopoulos, tentata esplosione per il pacco bomba inviato all'ex capo dell'antiterrorismo Dimitris Korianopoulos, possesso di esplosivo per il pacco bomba inviato all'ex capo dell'antiterrorismo Dimitris Korianopoulos. Il secondo compagno accusato è Spiros Mandilas, che è accusato per partecipazione alla cospirazione delle cellule di fuoco, tentato omicidio dell'ex del capo dell'antiterrorismo Korianopoulos, tentata esplosione, possesso di esplosivo, tutti riguardanti l'invio del pacco in bomba all'ex capo dell'antiterrorismo su prima citato. Terzi accusati sono i compagni della cospirazione delle cellule di fuoco, e qui le accuse ovviamente si prolungano. Una, l'istigazione al tentato omicidio dell'ex capo dell'antiterrorismo, lo ripetiamo di nuovo, Korianopoulos. Due, istigazione alla tentata esplosione, sempre per il pacco bomba inviato alla suddetta merda. Terzo, istigazione a possesso di esplosivi, sempre riguardando il pacco bomba alla merda. Quattro, istigazione al tentato esplosivo per l'attacco all'auto della direttrice del carcere di Korydallos, Maria Stefi. Quinto, istigazione a possesso di esplosivo, sempre per l'attacco all'auto della direttrice del carcere di Korydallos. Sesto, istigazione all'attentato esplosivo per l'attacco all'auto della guardia del carcere di Nafrio, Argyris Gelburas, ad Argos. Il settimo è istigazione al possesso di esplosivo per l'attacco all'auto della guardia del caccia di Netflix, sempre la solita merda. L'ottavo, istigazione al compimento di danni, auto della direttrice del carcere Corri Dallos Maria Stefi e auto della guardia del carcere di Naflio Argiris Gaburas ad Argos. Alcune parole sul progetto Fenix o Fenice. Il progetto Fenice è iniziato il 7 giugno 2013 tramite un appello della cospirazione del cellule di fuoco e Gangs of Conscience FRI, cellula sole baleno, il cui obiettivo era la rinascita dell'attacco dinamico della guerriglia urbana. Un progetto che avrebbe segnato la rinascita della cospirazione delle cellule di fuoco o dalle ceneri lasciate dall'oppressione poliziesca. 11 azioni sono state realizzate finora. La prima in Grecia ad Atene, 7 giugno 2013, l'auto della direttrice del carcere di Corri Dallos Maria Stefi viene fatta esplodere dalla cospirazione delle cellule di fuoco FAI FRI e dalla Gangs of Conscience cellula sole e baleno. Il secondo attacco, sempre ad Atene in Grecia, il 12 giugno 2013, l'auto della guardia del carcere di Naflio Argiris Gaburas viene fatta esplodere dall'International Conspiracy, dall'International Conspiracy of Revenge. Il terzo è avvenuto in Indonesia, a Jakarta, il 26 giugno 2013. Il terzo piano dell'hotel Sheraton viene incendiato dalla Anger Unite International Conspiracy of Revenge. Il quarto a Salonicco, Grecia, 3 luglio 2013. Un pacco bomba viene inviato all'ex capo dell'antiterrorismo Dimitris Korianopoulos, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle accuse, dalla cellula Maurizio Morales FAI FRI. Quinto attacco, Indonesia, Balikpapan, 24 agosto 2013, un'accademia di polizia viene totalmente bruciata dalla cellula Freedom Tumandilas and Salaridis International Conspiracy for Revenge FAI FRI. Sesto attacco, Atene, Grecia, 1 settembre 2013. Un pacco bomba viene inviato al procuratore speciale Dimitris Mokas dalla cospirazione delle cellule di fuoco, cellula Rio. Per chi non lo sapesse, Rio è il compagno che portava avanti il sito indonesiano che ora è Asimmetris, ma all'epoca era Nemesis, non mi ricordo bene il nome, però comunque il compagno indonesiano morto lo scorso anno. Attacco numero 7 arriva da Bryansk in Russia il 2 ottobre 2013, dove una segheria e un resort di caccia viene incendiata dal comando Nestor Makhno Elf Fight. Ottavo attacco, Cile, Santiago, 16 novembre 2013. Un plico esplosivo viene inviato al 98esimo consiglio elettorale di La Reina dalla cellula Long Live Ilya Romanov, affine all'internazionale nera. Attacco numero 9, Messico, Toluca. Il 18 novembre 2013 un dispositivo incendiario posizionato fuori una chiesa e uno davanti ad una banca nella zona di San Sebastián. Il secondo, il 21 dicembre 2013, un dispositivo incendiario esplosivo piazzato fuori una banca vicino all'aeroporto della fazione anticivilizzatrice del Fronte di Liberazione della Terra affine alla Federazione Anarchica Informale, FA-FLT-FAI. Attacco numero 10, Indonesia, Malang, 9 gennaio 2014, un bancomat viene fatto esplodere dalla cellula Sebastian Oveslucci Segel, International Conspiracy for Revenge FAI. Attacco numero 11, e questo è di un mesetto fa, arriva da Berlino, dalla Germania, l'8 aprile 2014, un veicolo dell'autorità di controllo municipale e un veicolo di una compagnia di sicurezza privata vengono incendiati. Il 24 aprile 2014 un veicolo consolare dell'ambasciata greca viene bruciato dall'Anonymous Cell Christos Kassimis. La solidarietà è la nostra arma, non un millimetro indietro, 9 millimetri nelle teste degli sbirri. Firmato i solidali. E questi erano gli aggiornamenti per quanto riguarda sia alle accuse che l'inizio, la data per inizio del processo ai compagni, sia della cospirazione delle cellule di fuoco, sia al compagno Savvaridis che al compagno Spiros Mandylas, che ricordo compagno, uno dei compagni che lo scorso anno a Salonicco, proprio ai primi di luglio, se non mi sbaglio, nemmeno in, proprio in coincidenza del pacco bomba che abbiamo letto, firmato Progetto Fenice, aveva organizzato un'iniziativa internazionale invitando un po' di siti e blog internazionali mondiali di controinformazione. Il compagno è stato arrestato qualche giorno dopo. Allora, questi erano per quanto riguarda gli aggiornamenti. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono X-Marked Padwalk, il brano è Lifeline, e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione. Thank you. E allora, questi erano X Marx The Padwalk con il brano Lifeline. Ora si ritorna alla controinformazione e ci spostiamo dall'altro lato del globo, dalla Grecia. Si passa in Cile, dove ci sono gli aggiornamenti, ulteriori aggiornamenti sugli arresti del 29 marzo a La Victoria, arresti avvenuti durante la giornata del giovane combattente in Cile. Allora, leggiamo gli aggiornamenti. Questa mattina, venerdì 2 maggio, verso le ore 10 sono state riformulate le accuse nei confronti dei quattro detenuti il 29 marzo a La Victoria. Javier è accusato per l'attacco incendiario ai carabineros, Miguel per attacco incendiario ad un autobus del Transantiago, Paz e Crystal per disordini gravi. In base a questo è stata cambiata la misura cautelare delle due compagne dagli arresti cautelari alla firma mensile, mentre l'inchiesta prosegue. Il cui termine non è stato prorogato e per ora dovrebbe scadere per il 28 maggio. Infine, oggi verso le ore 17 sono uscite da carcere di San Miguel le due compagne, dove fuori dalla carcere sono state accolte da vari compagni, amici e familiari. Per quanto riguarda Javier e Miguel, giovedì 15 maggio verranno riviste le loro misure cautelari. Abbiamo anche scritto circa la situazione di Miguel, in modo da dare un'idea del quadro complessivo del caso, non perché invitiamo a solidarizzare con lui. Lo ricordo per chi non lo sapesse, che Miguel, uno degli arrestati, subito dopo il suo arresto se ne è uscito con una bella lettera di merda, molto difensivistica, una lettera molto di merda. In passato era uno di quelli, diciamo, tanto per far rendere un'idea ai compagni in Italia, Miguel era un tipo di quelli che sono stati definiti anche carogne pseudo nichiliste. Ecco, Miguel era una persona del genere, e quindi come capita che in Italia gli pseudo nichilisti, invece di, dopo aver parlato tanto dell'antigiuridismo, qualcuno di loro prende addirittura due avvocati, Miguel se n'è uscito con una bella lettera lunga di merda, in cui c'è il delirio, e sulla reazione abbiamo preferito non pubblicarla per niente. Leggiamo ancora il comunicato. Il nostro supporto è focalizzato su Javier, Paz e Crystal, oggi soprattutto Javier, ma siamo consapevoli anche del fatto che il caso non è chiuso e che le decisioni giuridiche possono cambiare da un giorno all'altro, come si è verificato nel caso di Nicolas Sandoval poche settimane fa. Javier, Paz e Crystal presenti, Sol, Crystal e Paz in resistenza, saluti, gruppo in solidarietà con gli arrestati del 29 marzo. E questa era la notizia che arrivava dal Cile per quanto riguarda gli aggiornamenti dei compagni arrestati il 29 marzo. Intanto lo ricordo che va avanti il processo per il caso Security, per chi vuole aggiornarsi, lo ricordo che sulla pagina di redazione c'è il link del sito creato apposta, dove ci sono vari contributi dei prigionieri arrestati per il caso Security, dove ci sono gli aggiornamenti di tutte le udienze per tale processo. Quindi basta andare sui link di radiazione e trovate giornata solidaria per il caso Security, se ricordo bene, giornata di agitazione e solidarietà. Questo è il vero nome del sito. Allora, questa era per quanto riguarda le notizie in Cile. Ora ci ascoltiamo un brano che non vi dico il titolo, perché fare le peggiori figure di mezzo ci metterei un'ora solo a leggerlo, perché è macedone. Però la band c'ha il nome in inglese, Bennis Propaganda, e poi dopo si torna qua e si leggerà il primo dei due testi che i compagni di Croce Nera mi hanno spedito proprio oggi, due testi di Alfredo e Nicola, due loro riflessioni molto importanti, molto interessanti, che non troverete pubblicato sul sito prossimamente, ma chi le vuole o si va a leggere Croce Nera il bollettino, oppure si ascolta la diretta oggi o il podcast domani. Quindi bella propaganda, e poi dopo leggiamo il primo testo, che è il testo di del compagno Alfredo Cospito. Allora, erano bene propaganda con il brano bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Chi lo vuole se lo ascolta e se lo va a ricercare, se capisce macedone. Io il titolo non ve lo leggo assolutamente. Allora, come detto prima del brano, Ora andremo a leggere due testi, non tutti e due insieme, perché uno è particolarmente lungo, dei due compagni arrestati, processati e che si sono rivendicati, soprattutto il ferimento a quel pezzo di merda di Adin Orsi, per chi non lo conosce ancora, quel pezzo di merda amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare, ecco, giusto per farvi fare un'idea. Quindi Freda e Nicola hanno mandato questi due testi, anche perché comunque la proposta di Croce Nera è nata proprio dai compagni detenuti, dai compagni detenuti nella sezione del carcere dell'S2 di Ferrara. All'epoca c'era pure qualche altro compagno, non faccio nomi, non si dicono nomi, diciamo nomi solo di dei compagni che stanno ora in carcere, quindi a Fede e Nicola. Presentazione di primo bollettino di Croce Nera che c'è stata venerdì 25 aprile a Roma, c'è stata una discussione, sono stati buttati là un po' di punti di vista dai presenti, insomma comunque è stata una buona discussione, anche se si sperava in un numero di compagni, una partecipazione in un numero di compagni maggiore, però evidentemente i vari punti di vista ultimamente in Italia non l'hanno permesso e chiudiamo qua, io provoco solo sulle cose riguardanti radiazione. Allora, dicevo, il primo testo che andiamo a leggere è il testo del compagno Alfredo Cospito, con cui apre il primo bollettino, il bollettino numero 0 della nuova Croce Nera Anarchica Italiana, che lo ricordo è presente anche su web con il sito crocenera.org. Poi attraverso radiazione comunque ci potete arrivare, c'è il link, c'è un po' di cose che comunque vi rimandano al sito dei compagni di Croce Nera. Allora, primo testo che dicevo, quello di Alfredo, che ha per titolo Rompere l'isolamento. Con difficoltà le nostre parole escono non censurate dalle quattro mura di questa galera. A volte però si riesce a rompere l'isolamento. Approfittiamo di questa occasione per dire la nostra sul progetto della nuova Croce Nera, progetto nato qui dentro tra un'ora d'aria e l'altra. Troppo spesso negli ultimi anni si è ceduto al piagnisteo, al vittimismo figlio dell'attesa. Attesa del presidio di turno, dello slogan urlato, tutti surrogati insufficienti dell'azione distruttiva. Fin dai primi giorni della nostra detenzione, al contrario, noi non siamo stati pieni di ottimismo, un sentimento non solo nostro, ma condiviso con alcuni dei nostri compagni di prigionia. Ottimismo concreto, fatto di diverse prospettive che insieme nella diversità riusciranno a sconfiggere quel realismo, quel continuo, insopportabile, sterile, tendere al sociale che tante braccia ha fiaccato. L'ossessiva paura di fare il passo più lungo per non spaventare la gente, l'ossessiva paura di non fare un'azione troppo violenta per timore che il gregge scappi. Sono sicuro che il nuovo progetto editoriale di Croce Nera riuscirà a fare breccia tra i vari compagni e compagne dedite all'azione, all'attacco distruttivo. Sono diversi anni che alcuni di noi sentono il bisogno di un luogo, uno spazio fisico, un periodico dove le varie prospettive e visioni dell'anarchismo d'azione si possano confrontare senza dogmi, ognuno attraverso le proprie certezze e dubbi. Croce Nera dovrebbe essere quel luogo. La posizione mia e di Nicola a Genova è stata chiara. Con chiarezza ho affermato di credere nell'efficacia del progetto informale della FAI-FRI, che è solo una delle varie componenti della più ampia internazionale nera. Sono convinto che le azioni per comunicare e per diffondersi debbano essere accompagnate da un messaggio. Una rivendicazione è che sia proprio questa comunicazione tra gruppi attraverso le rivendicazioni la cosiddetta organizzazione informale di cui molti si riempiono la bocca riducendola ad una complicata astrazione. Solo così si può scavalcare l'assemblea decisionale e togliere potere ai vari leader pompieri anarchici. Questa è solo la mia convinzione, una delle visioni che spero possano confrontarsi e, perché no, scontrarsi sulle pagine di Croce Nera. Una palestra teorica che spero col tempo riesca a sbarazzarci del fardello ormai insostenibile di una visione sociale e pietistica che sta trasformando molti anarchici in preti laici sempre a rimorchio dell'ultimo caso pietoso. Come trottole militanti si rimbalza da una lotta all'altra, senza mai essere veramente incisivi, senza mai essere abbastanza violenti. Insomma, io e Nicola vorremmo un giornale fatto dai compagni e compagne che, pur avendo progetti totalmente diversi dai nostri, non si limitano a corteggiare gli sfigati di turno, quali i soliti detenuti o immigrati, perché un tale atteggiamento politico crea paternalismo ponendoci al di sopra delle categorie che difendiamo e trasformandoci di fatto in avanguardia. Compagni, compagne, con prospettive diverse, ma uniti da una certezza che secondo noi dovrebbe essere indispensabile per aderire a questo progetto editoriale. La certezza che le rende sono vuote se non accompagnate dai fatti, e di fatti sono unicamente le azioni d'attacco distruttive. Il resto è politica e ci fa schifo. Alfredo Cospito, prigioniero di guerra. E questo era il primo testo che leggiamo oggi, il primo dei due testi inviati dai due compagni, Alfredo e Nicola, della sezione, dalla S2 di Ferrara. Lo ha detto stesso Alfredo che la proposta è arrivata specialmente da dentro, quella di ritornare con una nuova Croce Nera, e spero che comunque si riesca a... c'è stato un incontro il 25 e spero che ce ne siano altrettanti un po' in giro in tutta l'Italia, i compagni che vogliono organizzare l'iniziativa, la presentazione del bollettino di Croce Nera. Lo ricordo, attraverso il sito dei compagni di Croce Nera può prendere il contatto e chiedere per l'iniziativa. Ora ci ascoltiamo un brano, Santa ECU con il brano Five Cannon, e poi dopo si ritorna qui e in due parti, perché questo è un pochino più lungo, perché fra Nicola da Ferrara si dilunga un pochino di più. Dopo ci leggiamo il testo di Nicola. Five Cannon, Santa ECU. questi erano Santa Ezio, Fight the Cannon, dopo il testo di del compagno Alfredo Cospito, lo ricordo, testo che potete trovare, non troverete sul sito di Radiazione, ma lo potete trovare sul bollettino numero 0 di Croce Nera Anarchica, quella italiana, per capirci. Allora, prossimo, ora passiamo avanti con l'altro testo, testo scritto dall'altro compagno coimputato di Alfredo, quindi Nicola, il compagno Nicola Gai, che si firma con una firma tutta sua, fra Nicola da Ferrara, testo che ha per titolo Tutto il resto è noia. L'ho anticipato prima, lo leggeremo in due parti perché è lungo, altrimenti a me ci vogliono le bombole di ossigeno, già sono un cane a leggere, se leggessi tre pagine e mezza di continuo non ci capireste un cazzo, quindi fidatevi, ce ne leggiamo metà per volta e lo intervalliamo con un piccolo brano. Allora, Tutto il resto è noia, alcune note sparse sull'azione diretta. Ho pensato di scrivere queste note perché mi sembra che negli ultimi tempi anche tra noi anarchici si parli troppo poco, e purtroppo troppo poco si pratichi, di azione diretta, privilegiando tentativi di incontro con masse più o meno indignate. Ho deciso di farlo su Croce Nera perché spero possa diventare uno spazio di dibattito fra coloro che lo considerano, che considerano l'azione centrale nel proprio percorso di lotta. Mi auguro sinceramente che Croce Nera non diventi una raccolta di sfighe carcerarie, ma il luogo in cui sollevare ed approfondire senza peli sulla lingua, da punti di vista diversi, le questioni che si ritengono utili a dare maggiore incisività alla lotta contro l'autorità. Certamente l'azione diretta è qualcosa da attuare e non su cui pontificare, però sono convinto che chiarire quello che ognuno di noi intende realmente quando usa queste parole possa aiutarci ad affilare le armi per andare all'assalto del presente. Per affrontare la questione senza perdermi in inutili giri di parole, voglio innanzitutto chiarire quello che non è per me. Presidi, volantinaggi, cortei determinati e comunicativi, torte, vernice, putazze, eccetera, in faccia all'infamone di turno, uova colorate e via di questo passo. Non si possono considerare azione diretta. Sono consapevole che un elenco del genere mi attirerà gli strali di chi sostiene che ogni mezzo ha pari dignità nella lotta, che il mio discorso possa sembrare schematico, militarista, pervaso da ottiche efficientiste e bla bla bla. Ma nessuno con onestà potrà negare che in quei momenti, facendo quelle cose, si sta di fatto mimando lo scontro, rinunciando a viverlo realmente. Sono convinto che la lotta vada affrontata con leggerezza, con il sorriso sulle labbra. Non si tratta che di un gioco, ma nulla vi è di più serio di un gioco in cui la posta è rappresentata dalla qualità della nostra vita e della nostra libertà. Nessuno può negare che la corrispondenza tra pensiero e azione dovrebbe essere la caratteristica fondamentale dell'essere anarchico. Se riteniamo necessaria la distruzione di questo mondo, dobbiamo agire di conseguenza. Non possiamo ricorrere a simpatici quanto innocui pensucci per tacitare, ingannandole, le nostre coscienze affamate di libertà. Bisogna avere il coraggio di affermare che l'azione diretta o è distruttiva oppure non è. I muri che ci imprigionano non cadranno da soli, ma solamente se investiti dall'onda d'urto della nostra rabbia. È inutile che il saputo di turno ricordi che l'insurrezione non è il risultato della somma aritmetica degli attacchi realizzati dagli anarchici. Sto parlando di qualcos'altro. La nostra vita è troppo breve per sprecarla in centinaia di happening volti a svegliare masse assopite affinché si presentino in orario all'appuntamento con il diffatato. Solo quando concretamente attacchiamo l'esistente riusciamo ad afferrare brandelli di libertà. Anche se solo per pochi istanti, ci liberiamo dalle catene imposte dalla quotidianità e dalla legge. La nostra lotta deve essere violenta, senza compromessi, possibilità di mediazione né tentennamenti. L'azione diretta distruttiva, l'unico mezzo che dovremmo usare per rapportarci con quanto ci opprime. Ma le cose, come sempre accade nella realtà, sono un po' più complicate. Purtroppo la sola azione non è la panacea di tutti i mali che affliggono il nostro movimento. Per quanto sia assolutamente convinto che nessun atto di rivolta sia inutile e dannoso, penso sia fondamentale interrogarsi sulla progettualità che li genera e soprattutto sul significato che vi dà chi li compie. Lo stesso atto può assumere significati assai diversi se questo viene concepito in un'ottica di attacco o di difesa. Cercherò di spiegarmi con un esempio pratico. In Val Susa, lo scorso anno abbiamo assistito ad un positivo incremento delle pratiche di sabotaggio nella lotta contro il TAV. Ottimo se nelle intenzioni di chi ha compiuto tali azioni vi sia l'intento di affermare con chiarezza che in gioco non vi è la semplice realizzazione di una linea ferroviaria, ma la necessità di attaccare e distruggere l'intero sistema tecno-industriale che la progetta. Tutt'altro paio di maniche se il senso è quello che si può leggere su alcuni comunicati del movimento NoTav, o cosa ancora più sconcertante sul numero 5 di Lavanda, foglio redatto da alcuni compagni che partecipano a tale lotta. Tali azioni sarebbero da interpretarsi come l'estreme ratio di un popolo che l'ha già utilizzato tutti i mezzi di pressione possibili e pacifici senza ottenere ascolto da chi governa. Sono convinto che tale interpretazione vanifichi ogni aspetto positivo e rivoluzionario di tali atti, infatti lascia intendere che se il potere fosse più ragionevole, più aperto al dialogo, ci sarebbe la possibilità di convincerlo a mitigare i suoi aspetti più nefasti. Was? Vabbè, ora ci siamo ascoltati un brano di Detto Tenusen con il brano Bonnie und Clyde. Per spezzare il testo di Nicola, perché era lungo, ho dovuto farmi un cicchetto di limoncello, lo dico, altrimenti mi si steccava la gola. Allora andiamo avanti con il testo di Nicola senza perderci incazzate del sottoscritto. L'azione diretta esprime tutto il suo potenziale di liberazione solamente quando è concepita in un'ottica di attacco. Non colpiamo il nemico perché il disgusto per la sua ultima malefatta ci è insopportabile, ma perché vogliamo essere liberi qui e ora. Non abbiamo bisogno di giustificazione per colpire, semplicemente non possiamo accettare di vivere in una vita priva di senso come insulsi ingranaggi di questo sistema mortifero. Dobbiamo essere noi a dettare le scadenze di lotta. C'è l'intero mondo da demolire e la possibilità di sconfiggere il mostro tecnologico si assottigliano proporzionalmente al suo sviluppo. Quando parliamo di azione diretta parliamo della nostra vita, perché il nostro rifiuto dell'esistente non è non è una moda, ma qualcosa di più profondo in cui mettiamo in gioco tutta la nostra esistenza. Per questo trovo veramente irritante quando ci si riferisce a qualche azione dicendo che era il minimo che si potesse fare. Sono convinto che non esiste nulla di minimo che si possa fare contro ciò che ci opprime. Non possiamo autoimporci limiti nell'azione, essa deve essere smodata come la nostra sete di libertà. Se ci si trova davanti ad uno sfruttatore, assassino in divisa, eccetera, e si decide di macchiargli il vestito con della vernice, quello non è il minimo che si potesse fare, ma è semplicemente quello che noi abbiamo deciso di fare. Ciò probabilmente dettato da una serie di analisi che invece di dare maggior forza alla nostra azione non faranno che infiacchirla. La gente non ci capirebbe, non dobbiamo fare un passo in più degli altri, bisogna partire dalle piccole azioni facilmente riproducibili, eccetera, eccetera. Naturalmente si tratta di considerazioni che necessiterebbero di una trattazione più approfondita e mi auguro che ci sia modo di ritornarci su e discuterne seriamente. Quello che ora mi preme dire è che dovremmo puntare sempre a fare il massimo che ci consentono le nostre capacità. Quando agiamo dovremo farlo essenzialmente per noi stessi e nel modo più risoluto. Non siamo altro rispetto a quella che in modo innegabile autoritario chiamano gente comune. Qualunque cosa facciamo può essere replicata da chiunque purché nutra il nostro stesso desiderio di distruggere l'autorità. Non dobbiamo cercare masse da convincere dalle bontà delle nostre tesi, ma complici che vogliono partecipare all'opera di demolizione. Non dobbiamo aver paura del nostro odio, ma gettarci a capofitto nell'azione, consapevoli che il nemico non esita un secondo nella sua guerra contro la libertà. Queste note sono dettate più che dall'aspirazione di elaborare chissà quale innovata analisi teorica, dal semplice desiderio di provare a condividere l'idea della necessaria centralità nella vita di ogni anarchico rivoluzionario, della pratica dell'azione diretta distruttiva. Quanto appena detto sarebbe senz'altro un'ovvietà se non ci fossero troppi compagni che consumano le loro forze sballottati come trottole in un attivismo privo di ogni progettualità realmente rivoluzionario, segnato dalle piaghe dell'assistenzialismo e dell'attendismo. Eppure, antidoti a tutto ciò già esistono: lotta antisociale, organizzazione informale, nichilismo, individualismo, rifiuto di leaders più o meno carismatici, rifiuto dello strapotere assembleare, comunicazione attraverso l'azione. Bisogna riprendere a guardare quanto accade in giro per il mondo, come storicamente hanno sempre fatto gli anarchici, nemico di ogni frontiera, e ci si accorgerà come i compagni di ogni latitudine stanno sperimentando nuove modalità di azione, liberandosi dalle pastoie delle cosiddette lotte sociali per gettarsi senza freni all'assalto dell'esistente. Dobbiamo riscoprire la gioia di agire, smetterla di limitarci alla ricerca di un illusorio consenso popolare. Senza limiti infingimenti teorici, il nostro obiettivo dovrebbe essere semplicemente quello di distruggere ciò che ti distrugge. Liberiamoci dalla politica, anche nella sua declinazione antagonista. deve essere chiaro che non lottiamo per un futuro radioso, ma per un vivere qui ed ora. L'anarchia dovrebbe essere in primo luogo un fatto individuale che coinvolga tutta la nostra vita. Dobbiamo cospirare, alimentare ogni più piccolo fuoco che possa incendiare la prateria, attentare con ogni mezzo all'ordine civilizzato e tecnologico che il sistema cerca di imporre. In questa lotta dobbiamo fare ricorso a tutte le armi a nostra disposizione, in primo luogo a quelle che non mancano nell'arsenale. Allora, in questa lotta dobbiamo fare ricorso a tutte le armi a nostra disposizione, in primo luogo a quelle che non mancano nell'arsenale di ogni anarchico: la volontà e l'azione diretta distruttiva. Fra Nicola da Ferrara. E questa era la firma simpatica di Nicola, che ha esposto le sue idee già un po' accennate anche negli scritti vecchi del compagno, come nell'urgenza dell'attacco o altri scritti vecchi. Quindi io non c'ho nulla da aggiungere, anche perché nel mio piccolo, con la parola un pochino più ignorante rispetto a quella di Nicola o di Alfredo, ho cercato bene o male in questi 2 anni su radiazione e basato su affinità di cercare di far capire certi contesti. Io sono molto più istintivo, molto più provocatorio, molto più testa di cazzo per qualcuno, e quindi le dico a modo mio, loro le dicono in modo duro, anche loro sono un bel po' provocatori, ma effettivamente c'è una qualità, diciamo, pure a scrivere, ad esporle. Sono molto più terra terra io, ma va bene così, ognuno c'ha il suo modo di dire le cose. Necessario è che comunque le cose, pensiero e azione, vanno di pari passo. Allora, prima di continuare con la controinformazione, ci prendiamo un'altra pausa con un altro brano. Loro sono Zero Defects con il brano Brain Dead, e poi dopo si torna qua e si ritorna con la controinformazione. We'll be right back. per libera cogestione di Jenny a Garogna. Ora cadiamo un'altra volta, ora ci tagliano un'altra connessione. Siamo tornati in diretta. Allora, a parte le stronzate, abbiamo letto il testo sulle riflessioni, poi non lo so, poi vediamo un attimo dopo, quando a fine diretta, a che punto era arrivato, nel caso lo riregistriamo e si rimette su podcast intero il discorso che avevo fatto. Niente, non vi siete persi niente di che, qualche offesa gratuita, no, qualche presa di culo gratuita, no, nemmeno gratuita, qualche presa di culo, giusto, il culo giusta. Allora, andiamo avanti con la controinformazione, si ritorna in Grecia, da dove si era partiti, si ritorna però stavolta invece di Atene e Salonicco, dove c'è un testo rivendicativo di un attacco alla sede del KKE, gli stronzi, pezzi di merda stalinisti che più di una volta hanno creato problemi ai compagni anarchici in Grecia. Allora, leggiamo il testo rivendicativo. Il 3 maggio 2014 alle 6.40 del mattino abbiamo lanciato delle molotov contro la sede del KKE, partito comunista greco, sita in Socrates Street, nel centro di Salonicco, che è utilizzata principalmente come ufficio elettorale. Questo attacco in particolare è stato descritto dai membri del KKE come una vigliaccata. I vigliacchi sono quelli che credono in uno Stato controllato da loro, che amano definirsi leadership rivoluzionaria, che elimineranno lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Quando chiamano la CNAT per intervenire e sopprimere le lotte che non possono guidare e controllare, perché sfortunatamente per loro in alcune occasioni la massa smette di essere tale, chi sono i codardi allora? Esempi, come la rivolta del Politecnico del 1973, l'occupazione della facoltà di chimica di Atene nel 1979, la rivolta del dicembre 2008, la difesa del Parlamento del 2011 dimostrano non solo il loro carattere di divisori, ma soprattutto la loro paura che noi scopriamo quando sia a marcio ciò che fanno loro. Oltre a questi fatti, nella nostra vita quotidiana affrontiamo il loro sessismo, omofobia, il potere che cercano di inculcare nelle menti di ragazzi, il loro sindacalismo burocratico, anche le violenze domestiche. Quando qualcuno dei genitori o dei parenti non è membro del KKE o del braccio giovanile KNE o del sindacato PAME o dell'organizzazione studentessa MAS o qualsiasi altra cosa, sia loro. Tuttavia, insistono che noi dovevamo votare per loro. Per noi votare significa sottomettersi. L'astensione dalle urne è ogni giorno e ogni notte nelle strade. E state attenti, stalinisti. Come per la parola vigliacchi, ma anche per le altre cose che occasionalmente cercano di affidare al movimento anarchico. Non preoccupatevi, arriverà il tempo che getteremo via i cappucci e quando quel tempo sarà giunto state sicuri che non esisterete più. Molto semplice. Poi sotto c'è ci sono delle note, CNAT, abbiamo letto che praticamente tra le manifestazioni loro chiamano CNAT, che sono i MAT praticamente, è la polizia antisommossa. Il KKE uguale Ketling, nota del traduttore, tattica poliziesca usata per contenere le manifestazioni di piazza. E kneeling è sottomettere, exploiting sfruttare, però qua è stato tutto tradotto in italiano e quindi che cazzo vi sto a leggere. Però sotto c'è la fonte, dalla fonte potete andare a risalire a tutta la spiegazione. Per il caos e per l'anarchia, nate il comune gioco di parole che è composto da KNE, organizzazione stalinista giovanile, e MAT, reparti di polizia di sommossa del comunicato greco. E vabbè, c'è la ripetizione di tutto quello che abbiamo letto fino ad ora, quindi andate sulla fonte e vi rifate, vi ridelucidate. Se non avete capito un cazzo, come ogni volta che lo do io, c'è una fonte, andate là, ci cliccate sopra e capirete meglio. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, dopo queste varie cazzate che ho detto io, però il KKE non sono cazzate, io le ho visti in azione, le ho viste in azione a Salonicco, se dei pezzi di merda sono pure belli grossi, sono belli, cioè fanno paura, vederli fanno paura, molto spesso anche i compagni anarchici in Grecia hanno paura di questi pezzi di merda, perché quando si muovono non si muovono mai da solo, cioè è un bel numero folto che si aggiunge a quello della sbirraglia, della celere nelle strade durante le manifestazioni. Ha difeso anche qualche questura, se ricordo bene, in passato. Insomma, un po' di troiai, un bel po' di troiai li ha combinati in tutti questi anni il Keke, quindi ben merita le Molotov nelle finestre degli uffici. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Unit 187, Anger Management. Unit 187. X7 Anger Management Part 1. Questo è il penultimo brano della giornata, penultimo brano, perché ora andiamo a leggere l'ultima notizia di controinformazione della giornata. Manderemo un brano giusto per chiudere la diretta d'azione. Sono oggi caduta e tutto, sono riuscito pure ad arrivare quasi alle 2 ore da solo, vai. Insomma, vabbè, vi siete dovuto succare per 2 ore sottoscritto, non lo so. Dopo vi consiglio Malox, una spremuta di limone con un po' di bicarbonato, così giusto per digerire le cazzate che ho detto. Però oltre alle cazzate mie ho letto qualcosa di interessante, come i testi di Nicola De Alfredo, come il testo di rivendicazione dei compagni greci nell'attacco contro il KKE. Insomma, cioè, in queste quasi 2 ore non ho detto solo cazzate, le cazzate sono solo le mie, ovviamente, come al solito. Allora, dicevo, l'ultima notizia di controinformazione della giornata riguarda l'Italia, in particolar modo Pisa, dove ci sono state ancora delle perquisizioni. Apprendiamo che nelle prime ore del mattino del 7 maggio la Digos ha perquisito alcune abitazioni e la sede del garage anarchico di Pisa, sequestrando computer, telefoni cellulari, materiale cartaceo, bombolette spray, vernice, lampadine, denunciando 5 compagni per danneggiamento aggravato e imbrattamento in merito ad alcune pratiche messe in atto dal corteo contro il nucleare di sabato 3 maggio. È evidente il fastidio che i compagni e le compagne attivi nella controinformazione e nel contrasto alla contaminazione nucleare in atto sul territorio pisano e livornese arrecono a chi vorrebbe portare avanti i propri intenti nocivi nel silenzio e nella rassegnazione della popolazione. Per la terza volta in pochi mesi una nuova operazione repressiva è stata attuata, a quanto pare, dal PM Giaconi, lo stesso PM che si è a lungo battuto per l'archiviazione dell'uccisione in carcere di Marcello Lonzi e che oggi serve gli interessi del CISAM e delle autorità locali responsabili dello sversamento di acqua radioattiva nel canale del Navicelli. Viva la resistenza contro il nucleare! Seguiranno aggiornamenti e questo appena ce ne saranno li riporteremo anche sul sito di radiazione. La situazione pisana che sembra essere tornata indietro di 10 anni, quando 10 anni fa nel 2004 partirono perquisizioni a tappeto, inchieste a tappeto che poi portarono alla chiusura del circolo anarchico ecologista e silvestre. In tutto avvennero una ventina di arresti, se ricordo, tra le due inchieste, quindi mi sa che la storia la vogliono far ripetere, anche perché per un po' di tempo non c'è stato più il silvestre, hanno aperto il garage anarchico, conoscendo Pisa che deve essere il buco del culo del mondo per le autorità locali, la città vetrina da noia quando si vanno a constatare certe cose. La conosco bene la situazione, lo ripeto, parlo perché la conosco bene e ho dovuto subire anche io le conseguenze, ma va bene, era un'altra storia, erano altri tempi, erano 10 anni fa praticamente. Allora, questa era l'ultima notizia di controinformazione della giornata. Ricordo gli appuntamenti con le dirette d'azione. Il prossimo appuntamento è per lunedì 12 maggio con controinformazione, lettura dei I Sabotatori di Edward Embey, a cui siamo già arrivati quasi a una metà del libro. Ovviamente la lettura di Nanziano 13 con il brano creato apposta subito dopo, che poi usciranno benefit per i detenuti, ma è un'anticipazione molto larga questa che sto facendo. Ora è maggio, se ne parlerà per ottobre per far uscire sia il racconto che il CD, quindi la controinformazione ovviamente, perché non deve mai mancare la controinformazione, radiazione è nato per questo, e la musica per rilassarci tra una lettura, una controinformazione e qualche altra cazzata detta da sottoscritto. Ricordiamo gli indirizzi, la mail di radiazione, radiazione@odissici.org, potete mandare qualsiasi tipo di scritto che volete che venga pubblicato sul sito di radiazione. Ovviamente quando arrivano io decido se pubblicarli o meno, e censura, lo dico molto chiaramente, e censura prendetela come volete, però ovviamente si è data una linea da percorrere, un percorso a radiazione, quindi non pubblico di tutto. Però penso che chi legge radiazione già sa bene o male i temi che non vengono affrontati sul sito. Per il sito è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete andarvi a riascoltare le vecchie dirette d'azione attraverso i podcast nella categoria Ascolta le dirette d'azione, dove potete scaricare opuscoli, libri, giornali, CD, insomma un po' di roba dalla pagina download, dove c'è lo scrigno che è praticamente il contenitore di perline anarchiche, dove c'è la pagina dedicata alla giornata di solidarietà internazionale. Insomma, c'è un po' di cose, ci sono i link per andare a controllarvi anche gli altri siti di blog di altri compagni in tutto il mondo. Il sito è radiazione.org. Non vi spaventate se esce lo sbirro con la paletta che vi dice che non è una connessione sicura, perché è un HTTPS e quindi è normale che esca, non si riescono a fare troppi cazzini nostri, e quindi ovviamente ci indicano come sito sospetto e pericoloso. Radiazione trasmetto su anafia.net, messo a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che ringraziamo come al solito. Ora vi lascio con un brano da titolo Let's Do It, è da da da, era un altro brano, e Stuzzende Noi Button. Let's do it. Trank mit John, war trotzdem nicht zur Stelle. An der Kellertreppe morgens am Sabini-Platz. Ich half Kurt beim Bauen seiner Häuser Nummer 1, 2 und 3. Ich reichte ihm die Säge, ich konnte ihm den Leim. Signore Marinetti, back from Abyssinia. Just you and me, my darling, we know what it really means. Let's do it, let's do it, let's do it, ah, da, da. Radioazione.org.